Rassegna Stampa Europa. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Prima di iniziare devo una precisazione a un ascoltatore che dice: Sud del Sudan è il sud del Sudan o è proprio un paese? No, è proprio una repubblica, è una repubblica a sé stante che appunto si chiama Sud Sudan. Ha una superficie di 620.000 chilometri, ci spiega l'Avvenire, una popolazione appunto di 11,5 milioni. Detto questo, passiamo appunto alla nostra rassegna stampa europea e oggi iniziamo magari tornando un attimo solo sulla questione greca, perché tra l'altro, come anche dicevo credo ieri, abbiamo un po' spento le luci su quello che sta succedendo in Grecia. In realtà Tsipras, all'interno del suo Parlamento, all'interno del suo partito Siriza, sta cercando di far passare tutte le riforme che ha promesso in cambio dell'accordo che è stato siglato 2 settimane fa. E tra l'altro ricordiamo che c'è anche la questione del Fondo Monetario Internazionale, che ha detto se non ci date retta sulla questione dell'abbattimento, della cosiddetta ristrutturazione, cioè del taglio del debito che pesa sulla testa della Grecia e che secondo noi, se non viene abbattuto, vanifica qualsiasi tentativo di riforme di accordo. E siccome al Fondo Monetario Internazionale è stato risposto sostanzialmente di no, perché la Germania è molto contraria a questa opera di taglio del debito, e quindi il Fondo Monetario Internazionale si sta defilando dalle negoziazioni. Ma come dicevo, continua il lavoro di Tsipras. Oggi per esempio lo racconta il Manifesto. E allora vi segnalo un articolo di Internazionale di Ivan Krastev, che dirige il Center for Liberal Strategy di Sofia e ha scritto anche un libro che si chiama Democracy Disrupted, The Politics of Global Protest, l'articolo si intitola La Grecia non seguirà l'esempio dell'Est. Lui è un esperto, scrive da Sofia, appunto un esperto anche ha studiato a lungo tutto quello che è successo dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e quindi scrive: anche se le economie dei paesi ex comunisti erano nel caos, i loro abitanti vedevano le riforme come una tappa verso un futuro migliore. In Grecia invece regna in questo momento la sfiducia, e sappiamo tutti come questa cosa difficilissima da misurare, che è la fiducia o la sfiducia dei cittadini o delle imprese, può in realtà avere un ruolo fondamentale nei processi anche economici. Tra l'altro vi segnalo che Internazionale di questa settimana, che è in edicola da ieri, sarà in edicola per 2 settimane, non è il solito Internazionale diviso dal quale spesso attingiamo per raccontarvi gli articoli della stampa di altri paesi sulle questioni europee. Non è appunto il solito Internazionale diviso per paesi o zone, ma è tutto dedicato ai viaggi. Vi invito comunque, per chi avesse tempo e voglia di leggere, tempo soprattutto suppongo, è un numero appunto speciale come ogni estate dedicato ai viaggi. Ma veniamo invece all'altro nostro grande fonte, che prima si chiamava presseurope.eu, adesso è cambiato, lo trovate all'indirizzo voxeurope.eu, e qui viene citato per esempio un articolo di Liberation che è legato, se vogliamo, questo tema è legato alla questione Grecia. Abbiamo sentito dire tantissime volte a tutti quello che è successo in Grecia deve essere poi anche il punto di partenza per rivedere la governance europea, per rivedere tante regole. E allora per esempio su Liberation c'è questo articolo: le istituzioni europee devono aprirsi alla discussione pubblica. Per il sociologo Antoine Vaucher la crisi greca ha messo in evidenza il ruolo della Commissione europea, della Banca centrale e della Corte di giustizia europea nella ferrea applicazione delle regole economiche che governano l'Unione, che vengono imposte ai cittadini, ai loro rappresentanti e agli stati membri senza poter essere discusse. E naturalmente c'è anche il grande tema del Parlamento europeo, che io dico sempre per semplificare che non legifera. In realtà il Parlamento europeo legifera, produce un sacco di leggi, il problema è che non sono questi, il Parlamento europeo paradossalmente non è lo strumento legislativo dell'Unione Europea, propone delle leggi ma i provvedimenti che poi veramente influenzano i provvedimenti che poi veramente vengono implementati, ecco, diciamo così, sono quelli della Commissione europea, non del Parlamento europeo o del Consiglio europeo. Vi segnalo, naturalmente anche i giornali italiani parlano spessissimo di queste questioni anche negli ultimi giorni. Allora per esempio ieri sul Corriere era apparso questo intervento di Harlem Désir e Sandro Gozzi, che sono rispettivamente il segretario di Stato francese agli affari europei e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe alle politiche agli affari europei, intitolato Servono convergenze per rafforzare l'Unione Europea. Bisogna un po' guardare oltre la finanza, anche se anche sull'Unione finanziaria, sull'Unione fiscale ci sono tante discussioni, discussioni, ma vi leggo le prime righe di questo articolo che inquadrano un po' la questione. Nel corso di un'interminabile notte bruxellese, i paesi della zona euro hanno camminato sull'orlo del precipizio. Vedete il legame, questo è il riferimento alla famosa maratona negoziale sulla Grecia. Alla fine di quella notte hanno prevalso lo spirito di solidarietà e di responsabilità e sono state compiute le scelte giuste per mantenere la Grecia all'interno della zona euro, preservando non solo la sua integrità ma anche quella dell'Europa intera. Però adesso appunto bisognerebbe fare un passo ulteriore. Questo era appunto un articolo apparso ieri sul Corriere della Sera. Su Financial Times questa settimana, tornando invece proprio al Premier, al nostro governo, alle vicende politiche italiane più strette, c'è stato un invito a Renzi a andare avanti con le riforme e anzi accelerare ancora. Il titolo: a Renzi serve affondare la sua stoccata delle riforme. Un anno fa circa c'era stata una grande intervista di Renzi a Financial Times che aveva spiegato il suo programma, e oggi Financial Times, che tra i giornali britannici, la stampa anglosassone in generale è molto brava in questo, cioè a fare una sorta di fact checking a distanza di tempo per vedere se le promesse sono state mantenute. Ecco, appunto, allora scrive: il Premier, come Berlusconi, ama presentarsi come il salvatore dell'Italia. I suoi progressi sono maggiori del suo predecessore, ma ora deve intensificare la sua stoccata per mostrare che fa sul serio. La fortuna dell'euro più debole, dall'euro più debole al quantitative easing, di fortuna parlava, abbiamo appena visto anche il giornale, ha aiutato la temerarietà di Renzi, però adesso appunto ci vogliono anche altri atti concreti del governo. Sulla questione di come riformare l'Unione Europea c'è invece apparso un articolo sulla Frankfurt Allgemeine Zeitung, la FAZ, questo giornale forse il più autorevole giornale tedesco, che ha dato voce a Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze, lo sapete, il più volte definito il falco del governo Merkel, colui che appunto si oppone strenuamente alla ristrutturazione del debito greco. Qui però la questione è che Schäuble invoca proprio un ridimensionamento dei poteri della Commissione dell'Unione Europea. Come verrà fatta questa riforma? Appunto la discussione sarà probabilmente una maratona anche in questo caso, e come vi dicevo c'è questo paradosso di una Commissione che ha quasi più potere di un Parlamento, che detto sulla carta nell'organizzazione di un qualsiasi Stato democratico non va bene, almeno dovrebbero essere paritari, e quindi Schäuble ha fatto questo invito. Se volete lo trovate anche online, il famoso articolo di Le Monde che parla del degrado di Roma dopo quello che era apparso sul New York Times, due articoli contro i quali si sono schierati molti esponenti, tra cui naturalmente il sindaco di Roma Marino. E poi vi segnalo un ultimissimo articolo apparso su Euronews, dove si dà indicazione, grazie a questo sondaggio dell'Eurobarometro, che in questo momento l'immigrazione è il problema principale dell'Unione Europea. Per il 38% degli europei rispetto all'autunno del 2014 è proprio questa la prima preoccupazione. Ultimissima segnalazione, mi fa segno Luca dalla regia. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, ci sentiamo domani mattina. Rassegna stampa Europa. Collaborazione con Euronet Plus.